Buongiorno, sono il tuo algoritmo. So quanto ti allenerai, quale piatto ordinerai. So esattamente cosa desideri. No, non lo sai. No, non lo sai. So quanto ti allenerai. No, non lo sai. Quale piatto ordinerai? No, non lo sai. So esattamente cosa desideri. Sono il tuo algoritmo. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. So esattamente cosa desideri. No, non lo sai. Did you fucking get it? Dalla mattina a notte fonda non perse una tribuna politica, né un comizio elettorale, né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Su tutti i canali esistenti, pubblici e privati, e su tutti e tre i televisori di casa. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Se lei cortesemente mi farà pervenire il suo indirizzo, io manderò a lei alcuni camerati a farle gentile omaggio di una bella confezione di olio di ricino per chiarirle le idee sul nostro programma elettorale. Sì, il problema grave è quello della stabilità. Se tu voti per me, io mi stabilisco stabilmente nello stabile di Palazzo Chigi e tenterei di non smuovermi più neanche con le cannonate. Noi non potremo deluderla, carissimo, perché questa volta le promettiamo, anzi le assicuriamo, un peggioramento quinquennale e... SPSDG, PG. Votando! Oh, intenda, sorella? Io sono sicuro che lei è una persona ben pensante, ma sa, qualcuno deve mettere fine allo strapotere del Vaticano. Si è mai fermato a riflettere su quei gruppuscoli paramilitari orientati politicamente a destra? Dicono che difendono il paese dalle truppe delle Nazioni Unite. Quelli frillano così forte che la mia ipotesi è: e questo sì che è un complotto, amico, che sono loro le truppe dell'ONU, sono già dislocate, l'infrastruttura è pronta, si tratta di un fatto compiuto, prenderanno il potere e saremo fritti. Un tizio mi guarda e mi fa: tu credi di vivere in un paese libero? Credi che questa sia la democrazia? Col cavolo! Siete in rete, bollettini pubblici pagati in proprio. Ah, credono che siamo cretini. Non mi fraintenda, sorella. Io sono sicuro che lei è una persona ben pensante, ma sa, qualcuno deve mettere fine allo strapotere del Vaticano. E gli elicotteri neri? Hai sentito parlare degli elicotteri neri? Sono dappertutto. Loro volano con un sistema di silenziatore. E uno se ne accorge solo quando se ne va. Capito? Non mi fraintenda, sorella. Io sono sicuro che lei è una persona ben pensante, ma sa, qualcuno deve mettere fine allo strapotere del Vaticano. Sei mai fermato a riflettere su quei gruppuscoli paramilitari orientati politicamente a destra? Un tizio mi guarda e mi fa: tu credi di vivere in un paese libero? Credi che questa sia la democrazia? Col cavolo! Col cavolo! Col cavolo! Col cavolo! Col cavolo! Col cavolo! Tu credi di vivere in un paese libero? Tu credi di vivere in un paese libero? Tu credi di vivere in un paese libero? Col cavolo! governo è pure comincia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare il tuo telefonato. Mia moglie sono anni che lo sta dicendo. Tutti i cavi, tutte le frequenze. Tutta tecnologia d'operi, più è facile per loro controllarti. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Ci siamo arrivati. Telescopio Hubble per studiare le stelle. Vediamo centinaia di satelliti spia che spiano noi. Ma è un segreto. Una volta ci attaccavamo fisicamente al filo per intercettare il tuo telefono. Ora le chiamate rimbalzano dai satelliti, le pescano nell'etere. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Ci siamo arrivati. Della cospirazione di tutto il mondo unitevi? È qualcosa di più di una teoria per me. Io facevo il cospiratore. Una volta lavoravo per la NSA, specialista in telecomunicazioni. Ascoltavo chiamate internazionali di cittadini stranieri. Sai il localizzatore che ho trovato nel tuo cellulare? Ho progettato io uno dei prototipi. Fort Meade ci sono 7 ettari di computer mainframe sottoterra. Se tu parli al telefono con tua moglie e dici le parole bomba, presidente, Allah, le parole chiave sono centinaia, il computer le riconosce, le registra e le segnala agli analisti e ti parla di 20 anni fa. Teorici della cospirazione di tutto il mondo unitevi? Teorici della cospirazione di tutto il mondo unitevi. Una volta ci attaccavamo fisicamente al filo per intercettare il tuo telefono. Ora le chiamate rimbalzano dai satelliti, le pescano nell'etere. C'è il limite fra la protezione della sicurezza nazionale, con l'evidente necessità del governo di ottenere dati strategici, e la protezione delle libertà civili, con particolare riguardo alla sacralità del mio domicilio. Perché voi non avete il diritto di entrare in casa mia. Perché voi non avete il diritto di entrare in casa mia. Casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia, casa mia. Sai, quando fai la guerriglia, trasformi le tue debolezze in punti di forza. Che vuol dire? Beh, se loro sono grossi e tu sei piccolo, allora tu sei più agile e loro più lenti. Tu sei nascosto e loro esposti. E dai in battaglia solo quando la vittoria è sicura. È stata la tattica dei Vietcong. Gli rubi le armi e poi le usi contro di loro. Così il nemico ti rifornisce e si indebolisce, mentre tu diventi più forte. Sai, quando fai la guerriglia, trasformi le tue debolezze in punti di forza. Tu sei nascosto e loro esposti. Tu sei più agile e loro più lenti. È stata la tattica dei Vietcong. Sai, quando fai la guerriglia, trasformi le tue debolezze in punti di forza. Tu sei più agile e loro più lenti. Tu sei più agile e loro più lenti. Direi che potrebbe tornare in prigione per 15, che so, magari 20 anni, anche di più. Direi che potrebbe tornare in prigione. 20 anni, anche di più. Non sono io. Sono io. Non sono io. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Non sono io. La tua email, ascoltare le tue telefonate. Non sono io. Può vedere il tuo conto in banca? Non sono io. I file del tuo computer? Non sono io. Capito? 20 anni, anche di più. Non sono io. Capito? Perché voi non avete il diritto di entrare in casa mia. Se loro sono grossi e tu sei piccolo, allora tu sei più agile e loro più lenti. Tu sei nascosto e loro esposti. Tu sei nascosto e loro esposti. Tu sei più agile e loro più lenti. Se loro sono grossi e tu sei piccolo. È stata la tattica dei Vietcong. Sai, quando fai la guerriglia, trasformi le tue debolezze in punti di forza. Perché voi non avete il diritto di entrare in casa mia. Se loro sono grossi e tu sei piccolo, allora se sei più agile, loro sono lenti, allora se